sulla maglietta c'è scritto: stasera faccio la brava, ma avranno già chiuso la disco. Quando dirai vado a casa è sabato, ai tacchi, che tanto è un metro da qui, cantando bevi, lo guardi ed è lunedì. E tu sei in piscina alla luce di luna, nuda vestita soltanto di schiuma, l'acqua ti scaglia e la pelle che fuma, bacia qualcuno che porta fortuna. E ti rimetti tacchi e di jeans, e intanto pensi che forse quel tipo sembra Jay-Z. E tu ti senti Beyoncé, pensi tanto fa niente, e il party sta caliente. Così in aria che vedo le stelle da qui, New Era sembra una corona da king, DJ metti Hotline Bling, fammi una foto che bevo dal vaso dei Ming. E quando ti chiamo, tu gira le passami il fuego, poi il piano e andiamo, incastriamoci come il Lego. E poi facciamo sempre il mattino e poi la colazione da Tiffany. Poi quando tocchi il cuscino c'hai quel fischio fisso nei timpani. E stai tra le onde, vita da bomber, vale la pena per sempre. Chissà se qualcuno si pente, chissà cosa pensa la gente. Tu pensi tanto fa niente, e il party sta caliente. Pareces de mentira. Yo quiero verte bailar y cómo mueves tu cuerpo para no dejar de soñar mientras me lo haces bebiendo. Riempi e buttalo giù fin quando non ne puoi più. Stasera non guido, mi scasse guiderai tu. Stasera non guido, mi scasse guiderai tu. Stasera non guido, mi scasse guiderai tu. E pensi tanto fa niente, tanto fa niente. Il party sta caliente.